Lo scorso 11 novembre parte Questo non è un tour di Claver Gold, rapper marchigiano che presenta il nuovo album Questo non è un cane, il 18 novembre all'Estragon di Bologna. È qui con noi per parlarne Claver Gold. Ciao e benvenuto su Radio Città Fucico. Ciao, ciao. Questo non è un cane e questo non è un tour. Perché hai scelto questo nome per il nuovo album e per il tour? Allora, ho scelto questo nome innanzitutto perché sono partito dal cane, dal concetto del cane inizialmente, quindi era il cane il concetto principale per il disco e volevo raccontare il tipo di amore che un cane dà, ovvero che è un amore che non ha bisogno di niente indietro, come dice Battiato, quando l'amore vero è quello che non si aspetta nulla indietro, quindi volevo raccontare un po' quel tipo di amore e volevo che si trasferisse anche negli esseri umani e che si percepisse un po' nelle intenzioni del mio disco. Invece questo non è parte da Magritte, questa non è una pipa e appunto questo non è un cane, è solo il ritratto di un cane, sono soltanto le storie che io racconto, non c'è nessuna verità assoluta, è soltanto parte di un vissuto. Quindi un po' il viaggio era quello, che parte dal cane e arriva alla pipa di Magritte. Qual è il brano di questo nuovo lavoro a cui sei più legato e perché? È sempre una domanda difficile, però il brano a cui sono più legato probabilmente è Il coraggio di dirti, perché a livello di sonorità mi rispecchia molto e poi c'è una genuinità di scrittura e una realtà che racchiude veramente la mia persona all'interno, quindi credo che sia Il coraggio di dirti. Torni sul palco dopo 5 anni dal tuo ultimo disco. Cos'è successo durante questo arco di tempo a livello artistico e come è arrivato il nuovo album? Sono passati 5 anni, nel frattempo ho fatto il tour del precedente disco che è Requiem, poi ho fatto un disco con Murbutu che è Infernum, quindi c'è stato il disco con Alessio Murbutu, poi c'è stato il tour di quello. Nel frattempo io avevo iniziato a lavorare a Questo non è un cane molto e alla fine, durante il periodo di pandemia, sono riuscito a dedicarmi completamente alla scrittura, visto che avevo più tempo del solito, diciamo, per poter concentrarmi su ciò che veramente mi piace. Sono riuscito a scrivere questo nuovo disco. Io ti auguro buona fortuna per questo nuovo tour e invito tutti e tutte il 18 novembre all'Estragon di Bologna. Grazie mille, ci vediamo il 18. Ciao!